Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Abbiamo in collegamento Claudio dei Delicatoni. Ciao Claudio, come va? Ciao, bene bene. Un bel periodo, siamo contenti di quello che stiamo facendo. Sta per iniziare il tour e siamo molto molto entusiasti. Intanto ti voglio chiedere chi sono i Delicatoni e una curiosità personale, da dove nasce questo nome? Delicatoni sono un gruppo di quattro amici fondamentalmente che si sono conosciuti negli anni, nel senso che Antonio e Ian, che hanno dato anche il nome al gruppo, facevano musica già dal 2017-2018. Assieme. Ci siamo incontrati tutti poco alla volta, Giorgio li ha conosciuti nel 2020, io nel 2021. Il nome Delicatoni nasce da quando Gianni lavorava in Svizzera e Antonio lavorava in Svezia. Mentre parlavano di quale nome avrebbero potuto dare al progetto che volevano formare, Antonio in quel momento stava mangiando delle palline di cioccolato in Svezia che si chiamano Delicato Balls. Il nome gli ricordava una sorta di, dava un'immagine di ossimoro in qualche modo, una delicatezza molto intensa che avrebbero voluto comunicare con la musica. Quindi il nome nasce banalmente da una coincidenza con queste palline di cioccolato e con un'idea di delicatezza che volevano esprimere con la musica. Il gruppo si è formato in generale perché Anto e Ian volevano un sassofonista, chiamano Giorgio, iniziano a fare musica assieme. E io li conosco quando Giorgio, durante il periodo del Covid, si è trasferito sopra casa mia, studiamo nello stesso conservatorio. Dopo avermi fatto sentire qualche provino del gruppo, ci siamo piaciuti molto e da là abbiamo coltivato un rapporto personale e artistico assieme. Giorno libero al vostro ultimo progetto, che sono quattro tracce profondamente diverse. Ma profondamente uguali. Che ispirazioni avete avuto nel comporre questo EP? Ti ringrazio perché è bello che venga fuori questa idea di coerenza nonostante l'eterogeneità del progetto. Le canzoni nascono nel primo anno di live che abbiamo fatto, quando dal disco Delicatoni abbiamo iniziato a suonare un po' in giro. E sono canzoni che inizialmente nascono quasi per creare più scaletta, ma avendole sempre tenute fuori dal disco, poi quelle canzoni hanno avuto molto tempo per essere provate e per essere sperimentate. Quindi nel modo in cui sono emerse, alla fine hanno avuto tempo per poter maturare in ognuno di noi delle visioni diverse. Solo che è una cosa su cui puntiamo tanto, il fatto che il nostro rapporto personale, la cura che diamo al rapporto personale, poi possa emergere nella musica. E in quelle canzoni penso sia venuto fuori esattamente quello, cioè il tempo e la dedizione che dai all'emotività dell'altro, alla personalità dell'altro per emergere, ha permesso alle canzoni di avere quello stesso aspetto a livello musicale. Sei stato chiarissimo, grazie. Secondo me si sente profondamente l'influenza della musica da tutto il mondo. Infatti, leggendo la vostra biografia, tu sei sardo, Ian ha studiato in Inghilterra, se non sbaglio. Si sente che andate a cercare qualcosa di più per portare in Italia dei suoni a cui secondo me non siamo troppo abituati. Come cercate anche la musica da rielaborare? In qualche modo ci rifacciamo prima di tutto tanto alle nostre ispirazioni e ai luoghi musicali da cui veniamo. Quando avevo 18 anni suonavo in un gruppo stoner, però poi mi sono iscritto al conservatorio per studiare la classica. Antonio ha sempre ascoltato e apprezzato la club music, ma anche il cantautorato, ma anche la musica sudamericana, lui è di madre cilena. E Giorgio è un jazzista di formazione, a cui però piace l'hyperpop, piacciono tante cose diverse, lo stesso per Ian. Le ispirazioni che abbiamo trovato sono arrivate dagli ascolti individuali e dal cercare di non sopprimere le diversità, nel senso quasi ci permettiamo di non guardare al mercato discografico italiano, in modo che poi il risultato che otteniamo non sia ottenuto per riflesso di quello che vediamo, neanche per allontanamento da quello che vediamo, per i nostri ascolti individuali, che nel 2023 oggettivamente arriva musica da tutto il mondo. Se si ha orecchie un po' per ascoltare, forse quel tipo di ispirazioni possono entrare nella musica, senza doverla necessariamente uniformare a un mercato o a una corrente che in quel momento va. Se dovessi descrivere la vostra musica con tre parole, quali sarebbero? Cado nell'ovvio, però delicata, eterogenea e polifonica. Forse quello è il termine più importante, nel senso di la polifonia è sostanzialmente una forma musicale all'interno del quale tutte le voci hanno esattamente la stessa importanza. La melodia è quella che è nella voce più alta, ma di fatto tutte le voci cantano e tutte le voci cantano assieme. Quindi forse la nostra musica si descrive bene col termine polifonico. Il 22 aprile passerete per Bologna al Mercato Sonato, però poi a maggio vi aspetta il palco del Miami a Milano. Intanto complimenti, perché è un palco importante. E voi come ve la state vivendo? Benissimo. Per quanto comunque sia un palco sul quale vogliamo salire ancora più coesi e pronti di quanto non cerchiamo di fare già normalmente, non ci prende l'ansietta o la preoccupazione, perché è più un'opportunità. Siamo, diciamo, in quel punto della carriera in cui in un certo senso possiamo solo migliorare, solo guadagnare, perché siamo ancora piccoli in un certo senso. E quel palco crediamo tutti ci dia la possibilità più che altro di confrontarci con artisti che hanno una carriera già stabile e ben costruita. Suoniamo nello stesso giorno di cosmo dei jockstra, per cui siamo semplicemente molto entusiasti di poterci confrontare con delle realtà che sono tanto solide e che, e questa è una cosa che ci teniamo a sottolineare, che già ascoltiamo noi. Non sappiamo se siamo più contenti per il fatto di suonare al Miami o per il fatto che ci potremo ascoltare quei concerti. Ci aspettano o prima o dopo del vostro tour, ci aspetta qualche progetto, se ne avete naturalmente? Sì, siamo molto contenti di un progetto a cui stavamo già pensando durante Delicatoni. Nella scrittura dell'album Delicatoni avevamo lasciato fuori quelle canzoni che erano un po' più spinte, concitate. Abbiamo deciso che avremmo lavorato parallelamente a un altro progetto che ha preso forma durante il mese di residenza che abbiamo passato a Casa degli Artisti a Milano e che si chiamerà Delicatroni. Sarà un album che presumibilmente dovrebbe uscire a fine 2023, inizio 2024 e che vedrà la presenza di musica, diciamo, club music, ma anche la library music, a cui ci ispiriamo tanto, Piero Piccioni, Piero Umiliani. Sarà un disco che secondo noi renderà ancora più palesi le influenze che arrivano dall'EP Margherita e dall'esperienza acustica e live che abbiamo fatto in quest'anno. Quello sarà un progetto di cui siamo tanto entusiasti che non vediamo l'ora di far uscire. Probabilmente già nei prossimi live suoneremo alcune di quelle canzoni. Perfetto, grazie mille Claudio, ti facciamo in bocca al lupo per tutto, soprattutto per il Miami, però noi vi aspettiamo. Grazie. Al Mercato Sonato. Ma certo, ma vediamoci tutti a Bologna. Grazie mille. A voi.